Tunisia all'Africa subsahariana e cominciamo la nostra riflessione sulla seconda fase della decolonizzazione che inizia negli anni 70 e diversamente dalla prima, caratterizzata comunque da negoziati abbastanza più o meno pacifici con le metropoli, si caratterizza invece per le guerre di liberazione. Oggi parliamo in particolare delle guerre di liberazione nelle ex colonie portoghesi, in particolare Guinea-Bissau, Angola e Mozambico. C'è da fare una premessa. L'Angola rappresentava per il Portogallo la colonia più importante da un punto di vista comunque agricolo e per le risorse energetiche, ovviamente parliamo di petrolio ma non solo, mentre il Mozambico e la Guinea diciamo avevano un'importanza minore. E il Portogallo di Salazar insomma porta avanti nelle colonie portoghesi un cosiddetto ultracolonialismo spietato e profondamente razzista, non ha nessuna intenzione comunque di concedere l'indipendenza e l'autonomia, però anche perché le colonie garantivano comunque all'impero portoghese un certo peso a livello comunque internazionale. E d'altra parte gli stessi cittadini portoghesi erano diciamo d'accordo con questa politica colonialista, anche perché attraverso questa potevano diciamo beneficiare di privilegi e di un tenore di vita altrimenti per loro irraggiungibili. Il Portogallo infatti diciamo promuove fortemente l'emigrazione in massa di cittadini portoghesi, soprattutto in Angola, dove la comunità poi portoghese sarà molto importante. Lasciarmi a quello che dicevi, questa politica di popolamento che il Portogallo ha adottato in alcune colonie ha dei parallelismi importanti in alcuni fenomeni che si sono prodotti in alcune colonie, per esempio francesi, soprattutto in particolare l'Algeria, di cui parleremo poi nelle puntate successive, o anche l'Italia, no? Per la Libia, dove c'è stata comunque una politica di popolamento, poi quanto riuscita lo vedremo. Sì, quindi di fronte a questo atteggiamento comunque repressivo del Portogallo fu inevitabile comunque nelle colonie portoghesi la radicalizzazione di movimenti di liberazione nazionale principalmente di stampo marxista-leninista. Andiamo a vedere nel particolare quali furono i principali leader e i principali movimenti che si svilupparono in Angola, Guinea e Mozambico. Allora cominciamo dalla Guinea, perché? Perché in Guinea ci fu diciamo l'azione di uno dei principali teorici della liberazione panafricana e socialista, Amilcar Cabral, un capoverdiano che diciamo come altri leader diciamo dei movimenti di liberazione delle colonie portoghesi si formò all'estero, a Lisbona e nei circoli ovviamente dell'opposizione antifascista. Amilcar Cabral fonda con il fratello, che poi come vedremo in seguito diventerà il primo presidente della Guinea, il PAIGC, che è il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea e di Capo Verde. Un partito ovviamente di stampo inizialmente socialista, che poi negli anni 70, insieme al Frelimo Mozambicano e al Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola, diventerà un partito marxista-leninista. Le teorie di Amilcar Cabral potrebbero sembrare, cioè la teoria politica di Cabral potrebbe sembrare diciamo un po' contraddittoria, però in realtà tutto trova poi una spiegazione nella sua formazione, ma anche in quelli che furono gli eventi che si verificarono in Guinea, perché lui diciamo ha nella sua teoria elementi di marxismo leninista per quanto riguarda comunque l'approccio rivoluzionario alla guerra, ma anche elementi di socialismo democratico per quanto riguarda l'amministrazione economica e politica e sociale soprattutto, e poi diciamo subisce una grande influenza del maoismo, soprattutto in relazione comunque alla propaganda culturale, al coinvolgimento delle masse. E quindi questa apparente incoerenza comunque nel discorso teorico di Cabral va invece inquadrata comunque in un percorso che vide tra l'altro poi in seguito una scarsa partecipazione della popolazione contadina, che inizialmente doveva essere comunque il perno centrale comunque della lotta e della rivoluzione, ma che poi si trovò diciamo a produrre e a sostenere una borghesia improduttiva che agli occhi della popolazione cioè non fece altro che incarnare quello che era il nemico, cioè diciamo comunque andò a sostituire praticamente il colonizzatore portoghese. E ovviamente il movimento di liberazione della Guinea aveva, diciamo, diversi appoggi, si muoveva partendo anche da altre regioni africane come la Casamance in Senegal. Questo avrà poi delle ripercussioni nei rapporti tra Guinea e Senegal, soprattutto, cioè, negli anni successivi all'indipendenza, ma questo lo vedremo fra poco in modo più dettagliato. Ritornando appunto ai movimenti più importanti, ai leader, diciamo, protagonisti di questi movimenti di liberazione, ricordiamo Eduardo Mondlane in Mozambico. Fu un personaggio, insomma, molto particolare, ebbe un vissuto e una formazione leggermente diversa da quella di Cabral, nel senso che lui studiò in Sudafrica, da cui venne espulso poi nel 49 quando cominciò il regime dell'apartheid, e si trasferì in America. In America ottenne un dottorato, insomma, in studi sociali, ma la cosa che, diciamo, ci interessa in questo momento anche capire che Mondlane, cioè, divenne poi in seguito un funzionario delle Nazioni Unite, cosa che potrebbe sembrare contraddittoria anche con il suo percorso poi di lotta, che però all'inizio, cioè, gli garantì una certa immunità politica contro comunque le persecuzioni del regime portoghese. Anche perché ricordiamo brevemente che l'America, nelle guerre di liberazione delle ex colonie portoghesi, ebbe un ruolo abbastanza contraddittorio. Cioè, inizialmente appoggiò i movimenti come il Frelimo, come comunque il Fronte Nazionale di Liberazione dell'Angola, e in seguito però si rese conto che il Portogallo, che apparteneva comunque a quel mondo libero e capitalista che era necessario per l'economia americana, cioè doveva essere in un qualche modo sostenuto. Ricordiamolo poi che il Portogallo era anche membro della NATO, quindi esatto, faceva parte di un blocco geopolitico strategico necessario all'esistenza. Necessario proprio. Eh sì, anche perché il Portogallo, cioè, comunque ricevette l'aiuto ingente della NATO attraverso comunque la concessione di armi. Insomma, quindi le armi della NATO nel conflitto comunque africano hanno un ruolo importante. E ritornando a Mondlane, nel 1962 venne eletto presidente comunque di questo Fronte di Liberazione per il Mozambico, che aveva in realtà la sua base operativa in Tanzania, allora ancora era Tanganyika, e nel 1963. Mondlane non arrivò a vedere il processo, l'indipendenza comunque del paese, perché fu ucciso poco prima comunque dalla polizia segreta portoghese. Passiamo adesso invece all'Angola, dove la situazione era molto più complessa, perché in realtà i movimenti di liberazione nazionale erano, diciamo, portati, il movimento era, diciamo, suddiviso in tre partiti principali, in tre movimenti principali. Abbiamo il Movimento Popolare di Liberazione per l'Angola, che fu in assoluto il più importante, il movimento di Neto, di Agostinho Neto. Abbiamo il Fronte Nazionale di Liberazione dell'Angola di Holden Roberto, e poi abbiamo l'Unita di Savimbi. Queste tre forze in realtà godevano di appoggi diversi, perché inizialmente il Movimento di Popolare di Liberazione dell'Angola di Neto comunque, cioè, fu appoggiato sia anche in parte dall'America, nonostante l'America preferisse comunque il Fronte Nazionale di Liberazione dell'Angola, e però sicuramente fu appoggiato, godette di un grandissimo aiuto da parte delle forze cubane e sovietiche. E invece il Fronte Nazionale di Liberazione, quindi all'inizio dall'America, fu appoggiato, poi si rivolse comunque ad altre, anche egli comunque a potenze come la Cina, cioè ebbe comunque tutti questi movimenti subirono, cioè, una forte influenza della Cina, in particolare Savimbi, che passò comunque un lungo periodo nel paese. E tra l'altro, cioè, comunque ci dimentichiamo che Holden Roberto era anche comunque imparentato con Mobutu, e da questo ebbe un certo aiuto. Poi abbiamo Savimbi. Savimbi sicuramente portò avanti una delle resistenze, cioè, più lunghe in Africa, anche dopo, cioè, comunque l'indipendenza. Questa è una cosa che vedremo a breve, però sicuramente, cioè, dopo l'indipendenza, il raggiungimento dell'indipendenza, il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola cominciò una guerra civile comunque soprattutto con Savimbi e quindi con l'Unita. Quindi questo diciamo è il quadro molto semplificato di quelli che furono i principali movimenti di liberazione. Ovviamente nel contesto africano, e in questa situazione in particolare, vanno considerate le alleanze bipolari che comunque furono instaurate da una parte con gli Stati Uniti e dall'altra con l'Unione Sovietica, con Cuba, ma anche con i paesi nordici dell'Europa. Infatti possiamo vedere che comunque sì, il Portogallo sicuramente nella sua guerra contro le colonie investì il 17% delle spese militari, comunque un investimento ingente, e però fu appunto, diciamo, aiutato dagli Stati Uniti, che ebbero un ruolo fondamentale in queste vicende. Dall'altra parte c'erano invece i movimenti nazionalisti che godettero dell'aiuto dell'Unione Sovietica, che dagli anni 70 riuscì comunque a diciamo inviare in Africa, cioè armi e guerriglieri, ma soprattutto preparare sul campo l'addestramento militare. E non è, diciamo, da poco considerare che alla fine degli anni 70 c'era un quarto di esercito cubano in Africa, soprattutto in Angola e in Etiopia. Perché? Ovviamente perché in questo frangente, nel contesto della guerra fredda, l'Africa fu il terreno privilegiato dello scontro con le potenze capitalistiche, anche perché rappresentava il modo, tra virgolette, meno pericoloso ma anche più facile di prendere parte comunque al conflitto. Ovviamente non c'è, cioè, anche da mettere in conto la visione, comunque la strategia politica terzomondista di Fidel Castro, che in questo caso aveva, diciamo, era coerentemente allineata con quelli che erano gli interessi delle ex colonie. In tutto ciò va aggiunto poi il sostegno finanziario, cioè importante, comunque dei paesi come Svezia, Olanda, Danimarca e Norvegia, a quelli che erano i movimenti di liberazione nazionale. Ma tuttavia, cioè, il sistema delle alleanze non si limita solamente comunque a quelle alleanze esterne di cui abbiamo appena parlato, ma coinvolge anche gli stessi paesi africani. Cioè, sappiamo benissimo che comunque il Sudafrica e la Rhodesia, che oggi è l'attuale Zimbabwe, presero, diciamo, direttamente parte comunque in questi conflitti. Il Sudafrica perché voleva in un qualche modo contenere la minaccia comunista, poi comunque aveva un problema interno abbastanza serio, sì. Esattamente, anche la Rhodesia comunque, cioè, che aveva il governo ultrarazzista di Ian Smith, che poi alla fine degli anni 70 fortunatamente cominciò, cioè, diciamo, a crollare e permise al paese di arrivare all'unità come Zimbabwe nel 1980. Un aspetto molto interessante delle guerre di liberazione nelle colonie portoghesi riguarda i cambiamenti nel discorso comunque, cioè, del rivoluzionario di moltissimi di questi partiti e di questi leader. C'è da dire inizialmente che quando questi paesi arrivarono all'indipendenza, comunque dopo lunghe e decennali guerre di liberazione negli anni 70, era già ben chiaro da una parte il fallimento delle esperienze della prima decolonizzazione, cioè di quei paesi che comunque avevano in un qualche modo accettato e riproposto delle forme comunque di dominazione coloniale e di sfruttamento economico. Dall'altra parte questi paesi avevano anche compreso, cioè, i limiti di quelle ideologie, soprattutto in particolare qui ci riferiamo al socialismo africano, di cui moltissimi leader africani erano portatori, Nyerere, Nkrumah, Senghor, cioè tutti i leader che avevano comunque teorizzato una via africana al socialismo. Perché? Perché secondo loro il fulcro principale della teoria andava ricercato nel fatto che le società africane erano società che al loro interno non presentavano divisioni di classe, ma che appunto insieme a questo senso fortissimo, questo senso innato di comunità, poteva permettere comunque agli africani di attuare delle società egalitarie e non basate sullo sfruttamento. In realtà questo non successe, questo si dimostrò ben presto un discorso inadeguato, perché neanche le società africane potevano sfuggire alla lettura marxista della storia, e il conflitto di classe venne riproposto e ritornò come centrale, cioè soprattutto appunto in questo caso nelle guerre di liberazione angolane, insomma mozambicane e della Guinea. Sì, interessante è il fatto, poi ne rifletteremo anche nelle settimane successive, come appunto l'ideologia socialista, il discorso socialista sia stato poi riprodotto e secondo quali modalità questo discorso fu riprodotto nel continente africano. Come ricordava prima Serena, tutti questi leader hanno avuto una formazione europea, in istituzioni europee, e quindi sono stati loro i portatori di questi discorsi all'interno del continente, molto spesso tentando poi una via africana al socialismo, che si dissociava in parte dal discorso marxista-leninista. Quello che è interessante notare è come non solo nell'Africa subsahariana ma anche nel Nord Africa questa, diciamo, trasformazione, questo trasferimento del discorso socialista abbia portato a molto spesso ideologie ambigue. Quando si parla, per esempio, FLN di assolutamente come anche il socialismo arabo di Nasser, no? Dove loro, per esempio, per esempio per il forte potere, il forte legame identitario che si aveva con il discorso religioso, anzitutto non era ateo, cioè si evitava di dire che fosse appunto un discorso ateo o comunque areligioso. Allo stesso tempo, come nel contesto dell'Africa subsahariana, comunque dell'Africa diciamo nera, per usare un termine appropriato, era appunto il conflitto di classe anima portante del discorso marxista, soprattutto nelle sue evoluzioni di inizio Novecento, era considerato come fallimentare per il contesto africano attraverso una idealizzazione del concetto di comunità, no? Che poi si è rivelata, come dicevi tu ben presto, inefficace per spiegare le dinamiche interne, no? Parlavamo anche l'altra volta della tratta dei negri, la tratta negriera, scusate. C'è da dire però che questa confusione, chiamiamola così, questo falso obiettivo, inadeguatezza dell'analisi interna di questa società, è stato anche portato dalle valutazioni di anteguerra della Terza Internazionale prima dello scioglimento, che individuava come soggetto per i paesi del terzo mondo i popoli oppressi, mentre invece nel primo mondo le classi, cioè trasferiva dalle classi come soggetto della lotta di classe nel primo mondo per i paesi oppressi questo popolo, il popolo oppresso, quindi contribuendo a questa confusione. Quindi c'è anche un antecedente storico, la Terza Internazionale nella fase appunto dell'avvio della Seconda Guerra Mondiale aveva questa impostazione. Assolutamente. Infatti favorì il discorso dei fronti popolari, che anche in funzione antifascista hanno creato confusione anche in Europa, in Francia, in Italia. Se pensate, si introduce in questo momento un'etnicizzazione del conflitto, perché parlando di popolo e non più di questioni di ragioni socio-economiche, si idealizzava un'identità che nella stessa Africa, sia nel Nord Africa che appunto nel Sud, l'Africa subsahariana, in realtà era un qualcosa di molto labile, no? Dal concetto di etnia al concetto di popolo stesso. Quindi in realtà è un discorso che poi ha prodotto purtroppo un'illusione forte per noi. Certo, sicuramente l'attenzione principale dei movimenti appunto africani di liberazione fu proprio appunto la lotta contro gli oppressori. Quello sicuramente divenne fu il primo fulcro, il primo motivo capace comunque di unire e di unire moltissime voci, comunque moltissimi popoli africani. Ma tuttavia, però, come diciamo poco fa, questi movimenti si resero conto, insomma, del fallimento dei discorsi precedenti, e non è infatti un caso che il Frelimo del Mozambico, l'MPLA-ACE dell'Angola e il PAIGC della Guinea-Bissau alla fine della guerra di liberazione si unirono e diventarono partito marxista-leninista. Poi vedremo nel dettaglio che in realtà il Frelimo in Mozambico, che ebbe una storia molto interessante, che fu l'unico tra questi movimenti a riuscire ad attuare comunque un esperimento di tipo marxista, divenne partito durante il terzo congresso comunque del movimento nel 77. Però in effetti questi tre partiti insieme decisero di portare avanti una strategia diversa da quella precedente e appunto si unirono sotto questo slogan che alla fine diceva: il partito e l'esercito sono una cosa sola. E bene, l'esito delle guerre comunque di liberazione in queste colonie sicuramente fu determinato dalla rivoluzione dei garofani in Portogallo. Cioè, nel senso, questo non vuol dire che i movimenti di liberazione africani non ebbero un ruolo fondamentale, però sicuramente non si può dire che la guerra la vinsero sul campo. Se è vero che loro stessi hanno influito poi sulla rivoluzione dei garofani, perché molti ufficiali combattevano comunque nelle colonie, imprigionati e anche rieducati, come dicevano, soprattutto l'MPLA li rieducava invece, esatto, faceva capire a questi che insomma stavano facendo una cosa indegna, esatto, e tornati in patria. Cioè, molti comunque sì, certo, lì proprio in Africa portano avanti i processi, coscienza, sì, diciamo, di coscienza che comunque, cioè, non avevano, diciamo, intrapreso precedentemente. Sì, erano stanchi, insomma, comunque il Portogallo non poteva più reggere una guerra decennale anche a livello economico comunque. E quindi c'è, tutto partì comunque dalla rivoluzione delle metropoli e poi in un qualche modo fu influenzata comunque dalla situazione nel paese. Facciamo una piccola pausa. Ritorniamo adesso invece, diciamo, parlando di quelle che sono poi le situazioni che si sono create in questi tre paesi in seguito all'indipendenza. Cominciamo brevemente con l'Angola. Abbiamo detto in precedenza che l'Angola aveva una situazione molto complicata. Infatti questa complessità si evidenziò subito dopo il raggiungimento dell'indipendenza, perché sicuramente il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola ebbe, diciamo, il consenso maggiore, comunque aveva avuto anche un sostegno molto importante, come abbiamo già detto, dall'Unione Sovietica e da Cuba. Però subito dopo l'indipendenza in Angola si scatenò una vera e propria guerra civile che coinvolse principalmente il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola e il Fronte Nazionale di Liberazione dell'Angola. Lo scontro, diciamo, ebbe la sua causa principale nell'invasione, comunque, cioè, da parte del Sudafrica dell'Angola, e questo nel 1975. Quindi, diciamo, ci furono sia contrasti interni tra questi due movimenti che comunque lottavano per l'egemonia nel paese, ma anche, diciamo, l'interesse di tutte quelle forze esterne che comunque, diciamo, cercavano di mettere, tra virgolette, le mani su quelle che erano le ingenti risorse comunque del paese. Quindi abbiamo da una parte l'MPLA che continua ad essere, diciamo, sostenuto da Cuba e dall'Unione Sovietica. Ricordiamo che appunto quando l'Angola fu invasa dal Sudafrica furono anche mandati migliaia di soldati cubani, la cosiddetta Operación Carlota, che si protrasse comunque per tantissimi anni, cioè fu una guerra civile lunghissima in Angola. Quello che negli scritti del Cieli lo chiama, stanno nel libro, quell'anno dove non siamo stati da nessuna parte, racconta dell'andata in Angola. Sì, e quindi è da lui la prima spedizione. Eh sì, diciamo, il CE fu presente in Africa dal 65 un po' in tutti i paesi, Angola, Guinea, Guinea-Bissau, Etiopia, e comunque appunto, cioè, fu questa guerra civile lunghissima che dilaniò il paese e che, diciamo, terminò nel 1888, ma terminò, insomma, per modo di dire, con un accordo siglato poi a New York. Si ritirarono tutte le truppe straniere anche e si tennero le prime elezioni presidenziali nel 92. Ovviamente c'è da ricordare che in generale in Africa, nell'Africa subsahariana, ma non solo, gli anni 90 furono gli anni della democratizzazione, l'ondata di democratizzazione apparente che comunque coinvolse tutti i paesi e che impose un po' ovunque elezioni multipartitiche che comunque la maggior parte delle volte, ma come anche nel caso dell'Angola, diciamo, riconfermarono quelli che erano poi i partiti al potere. In realtà l'esito elettorale di queste prime elezioni multipartitiche non fu ovviamente accettato positivamente dall'Unita, quindi da Savimbi, che inaugurò una nuova fase comunque di guerra civile. Savimbi diciamo fu un leader molto importante, infatti il movimento continuò a portare avanti azioni comunque di resistenza e di guerriglia fino alla sua morte. Cioè, quando lui morì nella primavera del 2002, allora diciamo il movimento, che già era diventato una sorta di gruppo paramilitare allo sbando, mise fine comunque alla strategia della violenza e diciamo fu cooptato in un governo di diciamo unità nazionale. I guerriglieri, se possiamo diciamo definirli così, furono tra virgolette reintegrati nelle forze militari e si arrivò a una situazione diciamo di relativa calma. È anche da dire che l'Unita di Savimbi divenne un gruppo diciamo allo sbando, anche perché rimase in realtà interdetto dal cambiamento drastico comunque nella politica estera e interna del Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola. Come abbiamo accennato prima, cioè, quasi tutti questi movimenti alla fine degli anni Ottanta, uno, cominciarono a attuare comunque delle strategie di liberalizzazione economica e politica. Sicuramente in questo gioca un ruolo fondamentale sia il Fondo Monetario Internazionale che la Banca Mondiale. Erano gli anni degli aggiustamenti strutturali, del debito, comunque furono diciamo messi alle strette la maggior parte di questi paesi e costretti per avere finanziamenti a attuare queste politiche. Quindi il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola fece tutta una sorta di cambiamento interno, cioè comunque mitigando e anche in parte nascondendo tra virgolette quello che era stato il passato marxista, attraverso la rimodernizzazione delle strutture, cioè la nazionalizzazione, e soprattutto cominciò ad instaurare delle relazioni molto molto forti anche con la madrepatria, cioè col Portogallo, con gli Stati Uniti, cioè relazioni di tipo economico ma non solo. E quindi diciamo questo fu un po' l'esito, cioè la trasformazione anzi di questo movimento, e che andò diciamo poi alla fine a tra virgolette sacrificare con questo suo comunque cambio di rotta politico un po' tutto quello che era stato il percorso della liberazione. Ma questo è un diciamo un elemento che ritroviamo in modo molto molto forte in Mozambico con il Frelimo. Noi appunto il Mozambico arrivò all'indipendenza nel 74 con gli accordi di Lusaka, e il Frelimo ovviamente fu il partito diciamo dominante, anche perché il Frelimo durante la guerra di liberazione aveva avuto un consenso popolare molto molto ampio, che poi è da distinguere bene dalla partecipazione popolare, però un consenso diciamo che coinvolgeva quasi tutto il territorio, anche perché cioè il Frelimo era visto da tutti come il salvatore in quella situazione. Tuttavia diciamo il movimento ebbe un cambiamento sostanziale, come accennavamo prima, nel 77 durante il terzo congresso decise di adottare una struttura partitica. Cioè questo in un qualche modo, come poi vedremo, andò ad influenzare moltissimo cioè la presa comunque di questo movimento tra la gente, anche perché divenne un partito e di conseguenza divenne si caratterizzò per una struttura fortemente gerarchica, autoritaria, anche perché il Frelimo vedeva al proprio interno cioè due anime contrapposte. Una parte l'anima movimentista, che era quella che comunque aveva diciamo lavorato sul campo, cioè che aveva combattuto, che sapeva bene che cosa era stata la guerra di liberazione, e quella che era stata capace anche di coinvolgere in assoluto la popolazione. Dall'altra parte quella invece dirigista, quella che poi ebbe la meglio quando il movimento diventò partito, ma che comunque cioè aumentò la distanza, il distacco comunque da parte di quelle popolazioni rurali, che in realtà anziché essere al centro del dibattito furono comunque messe ai margini. Ci fu un cambiamento sostanziale, che questa viene vista molto spesso come una delle cause principali cioè della perdita di prestigio ma soprattutto di consenso del Frelimo. E quindi diciamo il Frelimo, una volta partito, come adottò si pose comunque in una condizione di opposizione molto forte nei confronti di quelli che considerava i nemici della rivoluzione. Naturalmente in primis parliamo di Chiesa, perché in Mozambico vennero confiscati tutti i beni della Chiesa, i missionari vennero diciamo relegati ad un ruolo di insegnamento, però non si poteva più comunque portare avanti un'opera di evangelizzazione. E ma chiesa, capi tradizionali che molto spesso in Africa, non solo in queste nelle colonie portoghesi, ma furono cooptati e divennero, diciamo, dei burattini nelle mani del potere coloniale, e nei confronti, cioè, della minoranza bianca, dei piccoli commercianti, insomma, loro adottarono e portarono avanti un programma molto complesso che comunque si basava principalmente su diciamo, la trasformazione della società, che doveva partire dal coinvolgimento delle masse, contadine, che comunque venivano organizzate in questi villaggi, dove appunto, cioè, le assemblee, i gruppi dinamizzatori gestivano quella che poi era l'organizzazione economica e sociale. Tuttavia le masse contadine, che si ritrovarono a produrre ma non avere finanziamenti, a non avere un supporto, si sentirono comunque abbandonate dal Frelimo, si sentirono abbandonate perché il Frelimo in un qualche modo innanzitutto diede più spazio e più importanza a quelli che erano gli strati urbani, anche perché ricordiamo brevemente, scusate l'inciso, quando arrivò al potere in Mozambico il Frelimo, cioè, non conosceva il territorio veramente, cioè c'era una mancanza di diciamo, prospettiva per quanto riguarda quelle che erano le macro e le micro aree, gli strati urbani, le aree invece rurali, e quindi questo, diciamo, ebbe un peso non indifferente. Quindi, diciamo, i contadini si sentirono abbandonati pian piano perché comunque vedevano che il Frelimo da una parte aveva, tra virgolette, rinnegato quelle che erano, cioè, le autorità tradizionali, e questo comunque ebbe, diciamo, un ruolo fondamentale. Poi loro si sentirono abbandonati anche a livello economico comunque, e quindi è in questo contesto poi fondamentalmente che cominciò a prendere piede il movimento di resistenza della RENAMO, Resistenza Nazionale Mozambicana. Certo, è da premettere che questo movimento non nacque in Mozambico, ma fu un movimento che nacque in Rhodesia, in cui, cioè, diciamo, c'erano coloni bianchi che in quel momento, cioè, volevano fomentare la ribellione per distruggere, o comunque per diciamo, intaccare l'unità del Frelimo. C'era però questo malessere che segnalavi tu, no? Io lo ricordo perché in questi passaggi qui la ripercussione a metà degli anni 70 in Italia, che allora c'era un movimento molto attento a ciò che succedeva in questi movimenti di liberazione nazionale, lo scontro proprio sul passaggio dell'Angola e del Mozambico, che noi allora li definimmo sul modello sovietico, perché il Partito Stato era proprio il modello, certo, sovietico, che rinnegava, secondo noi, allora ci fu delle assemblee focosissime nel movimento a Roma, a suon di sedie che si tiravano addosso, perché chiaramente noi eravamo critici verso l'Unione Sovietica, certo, e verso l'imposizione, cioè il modello sovietico che veniva ripreso e che cambiava, perché appunto sia il Frelimo sia la MPLA nelle zone liberate, prima di andare al potere, durante la lotta di liberazione, attuavano invece quel processo che poi hanno rinnegato, cioè veramente la struttura di democrazia di villaggio. Lo attuarono davvero, cioè, un momento, poi dopo, una volta andare al potere, invece tornano indietro, e questo ritorno indietro crea quel malessere su cui poi la RENAMO, certo, oppure appunto Savimbi si innescano. Assolutamente, sì, infatti comunque, cioè, fu alla fine abbastanza facile per la RENAMO prendere piede, cioè inizialmente non aveva nessun tipo di appoggio sociale, poi però comunque riuscì a conquistare, tra virgolette, la fiducia di vasti strati della popolazione. E la situazione, vabbè, la RENAMO ovviamente era stata creata dalla Rhodesia, ma finanziata dal Sudafrica, e quindi nel momento in cui però la Rhodesia, ricordiamo che siamo comunque, cioè, alla fine degli anni 70, divenne indipendente nel 1980, mancò, diciamo, un importante sostegno a questo movimento. E sicuramente ci furono poi comunque delle situazioni, comunque delle diatribe molto forti con il Sudafrica. Ad esempio nell'83 il Mozambico viveva una fase difficilissima di violenza, di caos, e quindi chiese aiuto alla comunità internazionale, chiese anche al Sudafrica di, diciamo, interrompere i finanziamenti alla RENAMO, e il Sudafrica gli impose come condizione quella di espellere dal paese i membri dell'ANC. Ovviamente l'ANC, African National Congress, il partito di Mandela, che il Mozambico espulse, però ovviamente il Sudafrica poi in realtà non mantenne la promessa, perché continuò a finanziare la RENAMO. E Quindi ci fu, ricordiamo, un contesto di crisi internazionale, fine quindi anche della guerra fredda, e questo, cioè, diciamo, ebbe un peso rilevante nell'appoggio che comunque l'Unione Sovietica dava a questi movimenti, comunque in particolare in Mozambico. Crisi economiche che portarono, come nel caso dell'Angola, anche il Mozambico nell'87 ad attuare un programma di riabilitazione economica nazionale, cioè praticamente un programma di fondi di aggiustamento strutturali concordati con Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. E nell'86, ricordiamolo comunque, che il presidente Samora Machel muore in un incidente aereo, le cui cause, diciamo, oggi si possono ricondurre all'attività spionistica del Sudafrica, però allora sconosciute, e passa al potere Cissano. Cissano, che comunque appena arriva al potere comincia ad attuare un programma di riforme, di liberalizzazione. Anche qui abbiamo, appunto, come per l'Angola, un grandissimo cambiamento, cioè nell'atteggiamento e nelle relazioni interne ed esterne del Frelimo. Frelimo che, prima di arrivare comunque all'instaurazione di politiche, essere completamente autonome, firma nel 92 la pace con il leader della RENAMO, che da Clama, e grazie alla comunità della mediazione della comunità di Sant'Egidio qui a Roma. Quindi abbiamo un cambiamento della politica. Il Mozambico è il primo paese che nel 1995 entra a far parte del Commonwealth. Teste delle relazioni fortissime con la Gran Bretagna, con gli Stati Uniti, ma con lo stesso Portogallo. Cioè Portogallo che comincia a finanziare economicamente anche quelli che sono i cosiddetti movimenti culturali, le associazioni culturali. E poi un aspetto anche interessante è che, per concludere, la situazione del Mozambico, che attualmente si trova in una condizione comunque sì di relativa stabilità ma di difficoltà economica non indifferente, che quando nel 2005 il presidente ci fu eletto Guebuza, e il vicino Zimbabwe di Mugabe comunque porta avanti una politica razzista molto forte di espulsione comunque dei coloni bianchi, il Mozambico decise di accogliere questi coloni bianchi e gli diede la cittadinanza mozambicana e anche le terre abbandonate al sud, cioè utilizzò in un qualche modo la manodopera qualificata, cioè l'esperienza agricola comunque di questi coloni rodesiani, per cercare di sollevare quella che era comunque l'economia agricola del paese. E quindi. Sì, che se facciamo un attimo un paragone adesso, tirando un attimo le somme, le realtà che abbiamo affrontato, possiamo notare alcuni elementi che li accomunano, no? Parlavamo prima delle diversità delle diverse Afriche e di differenti processi di emancipazione dal colonialismo, però ci sono anche, appunto, degli elementi di continuità. Se pensiamo anzitutto purtroppo allo smantellamento di questi discorsi che avevano portato delle guerre di liberazione e quindi a un'ottica emancipatoria di queste popolazioni, che negli anni Ottanta soprattutto, strozzate un po' dal contesto internazionale, ma non solo, perché, come dicevi prima tu, Serena, alla fine vi erano anche delle contraddizioni interne che sono state hanno rappresentato delle cause importanti del fallimento di questi processi, no? Il Frelimo e la sua riconversione, l'anima dirigista. Quindi vi è da una parte un discorso rivoluzionario che si è affievolito nel tempo. Ha fatto dei passi indietro. E su questa scelta, chiamiamola capitalista, è chiaro che vanno completamente nelle mani della, come dicevi tu, Serena, del Fondo Monetario Internazionale, i prestiti vengono dati a quelle condizioni. Quella specificità rivoluzionaria si impongono, si strozzano da soli. Soprattutto perché avevano eroso loro stessi la base sociale, no? Attraverso queste politiche, da una parte, per quanto riguarda il caso del Mozambico, avevano queste politiche di allontanamento, di alienazione delle masse rurali. Sì, furono tanti i fattori, tra cui uno di cui non abbiamo parlato prima, anche che questo è un elemento che ricorre spesse volte in Africa, il fatto che il Frelimo comunque era identificato politicamente come il dominio del sud. e quindi questo comunque ha dato, diciamo, spazio anche alla Renamo, una caratteristica che si ripresenta spessissimo quando comunque il movimento viene identificato con il suo leader che magari ha origini comunque regionali, sì sì, contrasti regionali che in Angola pure sono stati fortissimi tra i vari movimenti. Quindi anche la localizzazione, diciamo, dei movimenti di rivolta, sì, di protesta, poi ha portato, è stata molto spesso strumentalizzata poi dai movimenti che possiamo definire controrivoluzionari, ma in realtà si basavano su contraddizioni reali. E sì, io credo che questo quadro qui ci permette, cioè anche una lettura un po' generale, per cui riprenderemo assolutamente questo dato qui in maniera molto interessante, cioè questo passaggio dei movimenti di liberazione da un tentativo socialista di democrazia diretta, insomma, invece alle scelte. Eh sì, in modo, e perché coincide anche con la fine del grande, diciamo, come dire, del grande sponsor, cioè dell'Unione Sovietica. Sì, quindi fanno il passaggio nel capitalismo, rimangono strangolati, le contraddizioni si acuiscono e su questo viaggiano. È un po' il quadro di tutta l'Africa poi. Sì, che... sì, sì, assolutamente. Certo, per capire poi veramente a fondo, cioè quali sono stati i processi che hanno subito queste colonie, comunque queste ex colonie portoghesi, bisognerebbe approfondire anche il ruolo del Sudafrica, ma questo lo faremo quando parleremo comunque appunto della Rhodesia, della lotta di liberazione rhodesia e in Sudafrica, quindi lì potremo avere un quadro veramente completo, cioè di quelle che sono poi state tutte le dinamiche che hanno, cioè tutte comunque il cono sud, tutto, esatto, il cono sud dell'Africa. Bene, io credo che i carni al fuoco ne abbiamo messa parecchia, elemento da riflettere e per richiamare appunto le prossime, rilanciare le prossime trasmissioni.